Siamo venuti a conoscenza, diciamo che mi hanno chiamate delle persone che sono associazioni che ovviamente praticano all'interno appunto la loro attività all'interno delle case di quartiere, e mi hanno chiamata alcune persone dicendo: abbiamo ricevuto questa cosa, siamo rimasti abbastanza insomma basiti, anche perché effettivamente ok, una programmazione annuale, però insomma quella settimanale ci sembra un attimino, come dire, eccessiva. La cosa è stata vissuta con molta molta preoccupazione, infatti non è una questione di puntare il dito, qua è una questione di rilevare e rivelare, diciamo, quello che è uno stato attuale di repressione, anche perché è vero che è giusto che ci sia anche un monitoraggio, ma questa stretta è molto molto preoccupante, cioè la modalità usata, e questo è stato da noi appunto portato fuori all'attenzione tramite il comunicato, perché appare come una stretta abbastanza repressiva, insomma crea un clima nel quale qualunque gruppo di potere, insomma, in qualche modo, no? Perché qua si pensa che ciò che si fa poi viene tolto a prescindere da chi c'è, ma non è così. E poi c'è comunque la possibilità reale di una censura, indipendentemente ovviamente da chi e come, chiunque ovviamente che detiene il potere può ergersi comunque a pubblico censore, quindi ovviamente si arriva al silenziamento di ogni voce che può essere in quel momento o comunque in generale fuori dal coro, come si è visto insomma in questi ultimi giorni nel caso appunto di quella che è il genocidio palestinese, e in merito anche alla presenza per esempio di Barghouti, che è stato invitato proprio dal comune. Qua è una questione di far emergere e portare anche alla riflessione, perché queste sono delle grosse criticità dal nostro punto di vista dello stato dell'arte di quella che viene che continua ad essere ancora chiamata democrazia. In questa circolare si parla di iniziative che possono essere rilevanti dal punto di vista della gestione dell'ordine pubblico, ma tra queste vengono inserite le presentazioni dei libri. Pensi che le polemiche che ci sono state sulla proiezione di questo film russo, che poi non si è tenuta a Villa Paradiso, possano aver contribuito poi a spingere il comune e la questura a emanare questa circolare? Contribuito no, assolutamente. E diciamo che ci sono delle situazioni che possono dare, come dire, il famoso trampolino messo ad hoc per fare qualcosa che di democratico, per quanto mi riguarda, non ha nulla, per qualsiasi scusa per e poi fare un po' quello che ovviamente si aveva già in mente di fare. Queste sono situazioni strutturate, cioè non c'è niente di emergenziale, quindi non è certamente quello che è successo per il film, per la Sala Paradiso, ma è qualcosa che evidentemente c'era già in un pensiero, nelle loro visioni, e niente, a quel punto qualsiasi palla è buona per il balzo, ecco, diciamo così. Purtroppo queste sono situazioni che mi dispiace dirlo, però non credo che finiscano qui, ecco, mettiamo